Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Per il terzo giorno consecutivo stiamo affrontando il tema del turismo sessuale, un turismo che non conosce stagionalità. 80.000 nostri connazionali, ma mi vergogno a definirli tali, ogni anno partono dal nostro bel paese per raggiungere mete di turismo sessuale, dove le loro prede, le vittime, sono ragazzi e ragazze piccoli e piccolissime. Se non è schifo questo, ditemi voi come altro si può definire questo ignobile crimine. C'è chi si batte affinché si sensibilizzi sul tema gli italiani, si sensibilizzino le istituzioni, i governi, l'Europa, il ricco Occidente, si sensibilizzino anche quei paesi in cui il turismo sessuale è una pratica diffusa, è una pratica confusa con la corruzione, con altri problemi sociali, ed è una pratica indotta spesso dalla povertà, come abbiamo sentito nei due giorni scorsi con i nostri ospiti Daniela Bernacchi, direttrice generale di Intervita Onlus, che si batte da anni nei paesi sottosviluppati per sensibilizzare sul tema, e con Giorgio Zucchello, che è coordinatore per la stessa Associazione dei Progetti del Sud del Mondo. Oggi ne parliamo con un'altra donna, Monica Weitz, che per Intervita Onlus è responsabile dei progetti in Asia e in Africa. Buongiorno Weitz. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Allora, se sentite un ritorno in cuffia, cari radioascoltatori, non vi preoccupate, perché in questo momento Weitz si trova nel Bahrain, in Africa, dove sta facendo che cosa, signora Weitz? Mi trovo qui a lavorare insieme a un nostro partner, la Fondazione Regard Amour, che si occupa di bambini abbandonati, e sono qua in una missione di monitoraggio per valutare insieme la situazione, per conoscerci meglio e per vedere come implementare sempre meglio il progetto. Ecco, lei ieri ha ascoltato le parole di Giorgio Zucchello, del suo collega medico che coordina e c'ha i progetti nel sud del mondo, e ci ha raccontato di alcune modalità operative in Brasile e in Cambogia che riguardano la vostra organizzazione non governativa. Quali differenze, se esistono, ci sono con i progetti che lei invece porta avanti in Asia e in Africa? Diciamo che rispetto alla Cambogia c'è una grande differenza, perché in Cambogia ci occupiamo proprio di questo fenomeno nello specifico, che è prevenzione e cura delle vittime di turismo sessuale, mentre in Africa, diciamo, non trattiamo nello specifico questo fenomeno, ci occupiamo prevalentemente di infanzia abbandonata, per esempio come il caso del Benin, oppure di vittime di conflitti come il caso del Congo, o di anche microimprenditoria come il caso del Senegal. Quindi per il momento, non che il fenomeno non sia presente anche in Africa, cito in particolare il Kenya, ma è un'attività che eventualmente svilupperemo nel futuro. Ecco, volevo farle questa domanda perché è importante, come dire, spaziare a 360 gradi facendo delle domande che possono anche sembrare magari poco opportune. Vale a dire, quello che vorrei sapere è questo: ma la cultura in Asia e in Africa è simile alla nostra, e quindi tale da avvertire come un reato e un crimine, indipendentemente dal codice penale, intendo dire, quello della vendita dei minori, oppure dal punto di vista della cultura c'è un po' ancora da lavorare in questi paesi? Guardi, dal mio punto di vista questa situazione, cioè il fatto di sfruttare sessualmente un minore, è avvertito come tale ovunque. Dopodiché quello che spesso succede, almeno nei nostri paesi, è al contrario di credere che, siccome sono in un paese sperduto dell'Africa o dell'Asia, mi posso permettere di fare cose che nel mio paese non farei, perché tanto lì si possono fare, lì sono accettate. Niente di più falso. Dopodiché è vero che sicuramente ci sono delle differenze culturali anche nel rapporto con la donna, nel rapporto con con i bambini, questo è certo, ma questo non vuol dire che ci sia un fraintendimento così grave a livello appunto di non comprendere cosa sia lo sfruttamento sessuale di un minore. Sono pratiche per esempio che quelle esistono, di credere per esempio che avere rapporto con una vergine, con un bambino o bambina, possa in effetti aumentare la potenza della persona, dare salute e quant'altro. Certo, su queste bisogna ancora lavorare molto. Ecco, io la domanda l'ho fatta volutamente provocatoria e forte, non perché non sapessi, come molti di voi cari radioascoltatori, che il crimine è crimine ovunque, questo tipo di crimine, ma proprio l'ho voluto sentire dalle parole di chi lì ci lavora per togliere magari degli alibi o delle false credenze in chi magari pensa che la cultura di questi paesi sia una cultura arretrata e quindi vendere una vergine, vendere una ragazza sia una pratica normale. Il crimine, questo crimine di cui stiamo parlando, è un crimine ovunque. Il turismo sessuale maledetto lo è, e lo è ovunque. Weitz, vorrei con lei tornare su un tema che ho toccato ieri con Zucchello, vale a dire il tema della corruzione e il tema della povertà. Dal punto di vista della corruzione, i paesi africani e asiatici sono più sensibili di quelli del nord, del centro e del Sud America oppure no? In che senso sono più sensibili? Voglio dire, sono più ricettivi, vale a dire corrompere un funzionario o un poliziotto, chi dovrebbe controllare sulla crescita sana e sociale di questi ragazzi, è più corruttibile rispetto a quello che invece accade magari in Brasile o in Cambogia. Ma in realtà in effetti può succedere, ma questo non perché le persone siano africane o asiatiche o del Sud America siano più o meno corruttibili, ma perché si trovano in un sistema che diciamo facilita o meno questa pratica. Le faccio un esempio che hanno fatto anche a noi in Cambogia. Insomma, succede che se si verifica una situazione di abuso sessuale, alla famiglia alla fine conviene di più mettersi d'accordo con il funzionario del caso, cioè più precisamente con il perpetratore, cioè ricevere da questo una piccola, diciamo, rimborso per il disturbo, chiamiamolo così, piuttosto che seguire tutta la pratica che lo porterà a fare una denuncia al tribunale. Questo perché i poliziotti o i giudici possono chiedere dei soldi, ma questo perché non ricevono effettivamente un salario adeguato. Ed infatti questo è un tema che abbiamo già toccato ieri. Allora, tra le tante domande che vorrei fare, e non basterebbe probabilmente un mese per esaurirle tutte, c'è una che mi sta particolarmente a cuore, per la quale richiamo in causa un ospite che abbiamo già avuto nella prima puntata, Daniela Bernacchi, che è direttrice generale di Intervita. Buongiorno dottoressa Bernacchi e bentornata. Buongiorno, grazie. Allora, lei nella prima puntata ci ha ricordato la stima del fatturato che, diciamo, sicuramente non è inferiore a 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Allora, il turismo sessuale si lega a moltissimi altri fenomeni criminosi, come la tratta di persone nei paesi ricchi ed occidentali, il trapianto, o meglio, l'espianto, il successivo trapianto di organi, la pedofilia, c'è tutto di più in questo discorso. Le chiedo, dottoressa Bernacchi, qual è il ruolo della criminalità organizzata italiana, se c'è, in questo enorme, gigantesco traffico disumano? Guardi, dati precisi, come giustamente ha detto lei, non ce ne sono, dati certificati. Quello che è certo è che c'è un grosso interessamento di criminalità locale nella tratta, locale si intende anche transnazionale. Certo. Ad esempio, in Asia da un bordello cambogiano si può comprare una bimba che ha un prezzo diverso a seconda che la bimba sia o meno vergine. Si arriva sui 150 dollari se la bimba lo è, e può essere rivenduta a intermediari giapponesi che sicuramente fanno parte di network criminali, può arrivare a 14-15 mila dollari e può in ultimo arrivare anche a un bordello per 80 mila dollari. Questi sono dati che ci ha dato l'Interpol, quindi si parte dalla Cambogia e si arriva a un bordello giapponese, quindi network criminali locali magari sono coinvolti in più stati. Parlare di un ruolo di criminalità italiana in questi network, sinceramente io oggi non glielo saprei dire. Certamente, ecco, però va bene la sua puntualizzazione su quello che è la catena criminale. Grazie per averci fatto conoscere queste cifre folli che sono alla base di un semplice gesto, che è quello di strappare per tutta la vita, quindi di un semplice ma dannato gesto, che è quello di strappare per tutta la vita un ragazzo o una ragazza alla propria dignità. Io ringrazio la dottoressa Bernacchi, ringrazio il dottor Zucchello, la dottoressa Weitz, che in questi tre giorni ci hanno accompagnato in queste tre puntate di approfondimento. Non sarà la prima e non sarà l'ultima volta che affronteremo il tema. Grazie ancora a tutti, in regia Fabio Cantadori, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.